Allora, è firmato il nuovo DPCM e assolutamente vi invitiamo a non svolgere feste e party nelle abitazioni ubriacate. Grazie, buon lavoro! Voglio fare una festa con gli amici e basta, senza mascherina come ai vecchi tempi, senza la mucchina. Per me va bene se sei d'accordo, io porto il vino rosso, così lo bevo e mi metto a parlare e cantare in ortodosso. Tutto questo te lo puoi scordare, c'è già il lievito che puoi comprare. Preparati a fare il pane alla sera per una buona e sana quarantena. Vado a ballare un reggae in spiaggia, allora con gli amici in reggae in casa. In spiaggia, in casa. Tu parli troppo, sei d'accordo?